Siamo in collegamento con Giuliano Santoro, giornalista per Il Manifesto e autore di diversi libri proprio sul Movimento 5 Stelle. Intanto, ciao Giuliano. Ciao, buongiorno a tutti. Appunto, volevamo parlare proprio del Movimento 5 Stelle e di come sia adesso al governo. Quindi partirei da una domanda molto generale: come stanno andando questi primi mesi di governo per il Movimento 5 Stelle? Il Movimento 5 Stelle si è trovato, secondo me, praticamente costretto ad andare al governo. La missione che Di Maio si era presa in carico un anno fa. Il settembre scorso, quando Arrigoni è stato incoronato capo politico del Movimento 5 Stelle e candidato alla presidenza del Consiglio, era esattamente questa, cioè portare questa piattaforma nelle stanze del governo ad ogni costo. E questo ha comportato alcuni compromessi. La missione dei compromessi non era affatto scontata, in qualche modo è stata portata avanti. È come se il popolo grillino avesse inglobato il concetto di realpolitik, che fino a poco tempo fa sembrava completamente alieno alla logica politica e alla cultura, diciamo, che esprimeva. E questo è stato fatto in nome di un nemico assoluto, in nome del fatto che il PD era il nemico assoluto, che bisognava assolutamente, più di Berlusconi, secondo me, nella narrazione grillina, che bisognava assolutamente allontanare dal governo, persino a costo di allearsi con la Lega. Quello che sta accadendo adesso è però che alcuni nodi stanno arrivando al pettine. Le difficoltà di questi giorni, secondo me, più che rispetto alla possibilità di rimanere coerenti ad alcune promesse, derivano proprio dal fatto che il Movimento 5 Stelle, per la prima volta nella sua storia, nella sua breve ma intensa storia, si trova a subire delle contestazioni. Siccome la storia del Movimento 5 Stelle fino ad ora io l'ho seguita abbastanza da vicino ed è sempre stata abbastanza sorprendente e difficilmente analizzabile secondo le categorie, diciamo, della politica classica, secondo le leggi causa ed effetto della politica classica. E quindi ogni passaggio va analizzato empiricamente. Adesso empiricamente dovremo capire cosa succederà rispetto a una cosa che fino ad ora non era mai successa, appunto, cioè rispetto a una contestazione che arriva dal basso, da dentro e da fuori il Movimento 5 Stelle, che inizia a nascere, basti pensare al Salento, ma anche ai comitati di controllo del valico, che ormai è stato accettato dal governo giallo-verde, e quindi non sappiamo come reagirà, non sappiamo se è in grado di reggere questa forza d'urto, ed è una contestazione che ancora di più evidenzia come oggi il Movimento 5 Stelle sia al potere, e quindi faccia in qualche modo saltare il gioco che finora è riuscito benissimo in questi primi mesi di governo, di apparire contemporaneamente sia forza di governo che forza di opposizione. In fondo, quando Di Maio qualche settimana fa ha parlato della manina segreta che aveva aggiunto il condono fiscale, sta ancora provando a fare quel gioco lì, di essere contemporaneamente il ministro, ma quello che contesta il potere, quando il potere è lui stesso. Quindi la delicatezza della fase è esattamente questa qui. E forse proprio con questo coincide la fortissima retorica contro l'Unione Europea, cioè nel tentativo di rappresentare comunque un'opposizione di qualche tipo. Esattamente. Diciamo che alla ripresa dopo l'estate, diciamo, dell'anno politico, la riapertura del Parlamento, da allora, da un'intervista di fine agosto, Di Maio ha iniziato a dire dobbiamo reggere fino a primavera, perché dopo primavera dopo le elezioni europee, l'Europa che così come la conosciamo non ci sarà più, l'Europa verrà conquassata da un voto di rinnovamento, così come è successo in Italia. Questa allusione a me ha sempre fatto pensare in qualche modo a una oggettiva dichiarazione di alleanza col fronte sovranista, perché oggi dire che se tra qualche mese l'Europa salta, se salta sicuramente non è purtroppo per qualcosa che si muove a sinistra, ma per il tentativo delle destre di sfondare e di scorporare l'alleanza tra popolari, e dividere l'alleanza tra popolari e socialisti. E quindi questo attaccare l'Europa e questo prendere l'Europa come controparte è dentro questo schema. Anche qui c'è una complicazione, che non bisogna sempre abituarsi a queste complessità quando si guarda il Movimento 5 Stelle, perché invece da qualche settimana Di Maio stesso ha detto che il Movimento 5 Stelle è una forza assolutamente europeista, che anzi vuole far valere i valori originari dell'Europa e che in nome di questo cercherà delle alleanze con delle forze che già esistono e che entreranno nel Parlamento europeo e che si differenziano sia dalle sinistre che dalle destre. Quindi, intanto sarebbe interessante capire quali sono queste forze, si va per esclusione. Non ce ne sono tantissime. E però fa capire che anche qui c'è un tentativo di superare una difficoltà in maniera un po' goffa. Lo schema probabilmente in questo caso è fare l'ago della bilancia in Europa e fare una specie di centro 2.0 che si allei con i salviniani d'Europa. non è ben chiaro. Anche questo sarà un passaggio complicato, perché in Europa per formare un gruppo bisogna allearsi con partiti di più paesi, bisogna raggiungere un certo numero di deputati, altrimenti si è completamente tagliati fuori. Nella legislatura che sta finendo ci fu l'alleanza rocambolesca con Farage, che poi tentarono di abbandonare, adesso Farage non ci sarà più, quindi anche questa collocazione europea pone un problema a Di Maio. È uno dei problemi che ha davanti, è uno dei problemi che rendono, non voglio dire fragile, ma che è uno dei bivi che ha davanti la gestione Di Maio del Movimento 5 Stelle. Ecco, questa è, diciamo, magari un po' esagerando, ma schizofrenia del Movimento 5 Stelle, nel senso che un po' dice una cosa e poi ne fa un'altra e ne dice anche un'altra. Secondo te è dovuta a una sua struttura interna, cioè al fatto che non sia organizzato come un partito, lo hanno ripetuto tante volte, o più al rapporto col suo elettorato, che è stato costruito su una narrazione molto diversa da quella standard della politica, come ricordavi prima? È dovuta al fatto che io penso che i vertici grillini abbiano inglobato, incorporato inconsapevolmente, non penso con una elaborazione intellettuale, il fatto che le parole sono completamente sganciate dalla... sono pienamente postmoderni, non so come dire. Hanno inglobato, non ne hanno la consapevolezza, ma interpretano alla perfezione il fatto che le parole sono semplicemente parole, che si possono cambiare, ci si può giocare, ci si può spostare, perché non sono concatenate a fatti sociali. E questo sicuramente, come dicevi tu prima, secondo me ha a che fare con la forza, con la struttura organizzativa. Cioè, nel momento in cui tu non hai, di fatto non devi rendere conto veramente a nessuno, perché sei basato su una struttura completamente liquida e su un programma che è cambiato diverse volte, che dice tutto il contrario di tutto, sei abituato a giocartela così, a dire una cosa, poi a dirne un'altra. E dall'opposizione questa cosa si può fare, al governo è un po' più complicato, quindi da cui derivano i problemi che dicevano prima. Ma sicuramente c'è questa attitudine, si pensa all'immigrazione, c'è un continuo tentativo di sposare tutte le posizioni che ci sono in campo, cioè tutto lo spettro delle posizioni possibili vengono ripetute nel programma del Movimento 5 Stelle. E questa è una logica che risponde anche al marketing, perché il sogno di ogni uomo di marketing è fare apparire un prodotto diversificato rispetto alle nicchie di audience, per cui ogni persona deve pensare che quel prodotto è stato pensato esattamente per lui. Questo è l'obiettivo di ogni uomo di marketing. Quindi dire qualsiasi cosa, soprattutto nelle bolle digitali dei social network, ti permette di far pensare a diversi tipi di persone che in quel momento il Movimento 5 Stelle sta dicendo esattamente quello che ti serve a te, e quindi unire le nicchie dell'audience digitale che poi diventano elettori. Non è un gioco perfetto, è un gioco anche questo che ha i suoi rischi, ma è un gioco che oggettivamente finora ha pagato. E proprio su questo tema dello slegare le parole dalla realtà per poi cercare di rivolgersi anche a elettorati diversi, diciamo, proprio su questo c'è anche tutta la questione delle cosiddette fake news, nel senso è un tema da un po' di tempo, però ora sembra che sia veramente un tema legato al governo, cioè partendo dalla manina per poi arrivare, per dire, alla notizia di ieri secondo cui il Movimento 5 Stelle avrebbe diffuso un'intervista completamente inventata sull'ex capo dell'Eurogruppo, tra l'altro citando poi come fonte un sito americano che loro citano come iperattendibile, ma in realtà è molto noto in America per essere un sito di riferimento dell'estrema destra, un blog fondamentalmente. Quindi, insomma, diciamo, tutto questo, cioè questa diffusione di notizie anche false, può reggere intanto per il Movimento 5 Stelle? Cioè, arriverà una smentita prima o poi, o al loro elettorato più fedele questa smentita, che effettivamente sui giornali c'è, non arriva? Secondo me in questo momento non arriva. Intanto faccio una nota di metodo, che la cosa che ha spinto me a occuparmi del Movimento 5 Stelle e lo sguardo che gli do è che essenzialmente, magari in forma esasperata, eccessiva, più visibile, il Movimento 5 Stelle è indice di trasformazioni che sono molto più generali, che vanno oltre se stesso. Anche in questo caso, cioè la politica è fatta di fake news e di verità alternative che si confrontano e che cercano di conquistarsi spazio nell'opinione pubblica. E il Movimento 5 Stelle gioca esattamente in questo scenario. È come se avessero la percezione che, appunto, più che dire falsità, siamo di fronte allo spappolamento della verità. Ognuno di noi cerca notizie che confermino quello che già pensa, e il Movimento 5 Stelle le dà i suoi. Volete attaccare il vostro nemico? Vi do questi argomenti. Non ci pensiamo se sono veri o no, ma servono semplicemente come rudimenti per confrontarsi nello spazio pubblico, spesso nello spazio digitale, ma non solo. Questa roba qui salta, secondo me, nel momento in cui emergono processi reali, che prima o poi era emergano in questo paese, nel momento in cui sulla TAV è molto difficile dire fake news. Forse sul reddito ancora ci riescono a imbastire questa specie di caricatura, di sussidio di povertà, come è chiamarla, reddito di cittadinanza, ma sulla TAP si sono dovuti scontrare con la realtà. Quindi quando emergono processi reali, lì non possiamo fare le analisi più raffinate sulla filosofia della comunicazione che vogliamo, ma questo gioco a tirare le parole, a costruire verità di comodo, a un certo punto salta. Quindi forse non può durare un eterno. E venendo adesso appunto alla realtà anche politica attuale del governo, c'è una cosa che non riesco a capire completamente, nel senso che nei sondaggi, per esempio, il Movimento 5 Stelle sta calando e Salvini sta invece salendo sempre di più, e tra l'altro anche a livello di politiche reali, di quelle poche che sono state effettivamente portate alla fine, sembra che la Lega abbia prevalso, diciamo, in questo rapporto di compromesso con il Movimento 5 Stelle. Ora però, nella realtà, a parte i sondaggi, la Lega ha meno della metà dei voti che effettivamente ha preso il Movimento 5 Stelle, di conseguenza dei seggi in Parlamento. Com'è possibile che questo rapporto così sbilanciato da una parte nella realtà poi appaia sbilanciato dall'altra? Beh, intanto secondo me è difficile, c'è qualcosa che tiene insieme il popolo, un idem sentire, come dire, che tiene insieme il popolo grillino e quello leghista. Forse poi in alcune proposte specifiche, però c'è un terreno comune oggettivo che sta nel linguaggio, nella capacità di affidarsi ai leader, nel modo in cui si usano i social, e questa cosa qui fa sì che un travaso di voce, cioè non sono così distinti i due elettorati, ecco, lo diceva anche il Votiamanti di recente, cioè diceva molti grillini magari continuano a votare 5 Stelle, ma auspicano che il Presidente del Consiglio diventi Salvini, secondo molti sondaggi, perché si sta saldando un blocco. Questa è una delle cose più preoccupanti dal mio punto di vista, perché se molto schematicamente, per brevità, diciamo che l'elettorato grillino rappresenta, seppur confusamente, le emergenze sociali e la richiesta di maggiore tutela sociale, e quello leghista una tematica forma nuova, però fondo nazionalista, quando sociale e nazionale si fondono nella storia ci sono sempre, c'è sempre da aver paura, e questa saldatura in qualche modo è avvenuta, e questo è uno dei motivi, non è l'unico, ma è uno dei motivi per cui comunque il governo in senso suo complesso nei sondaggi ancora gode di fiducia da parte dei cittadini, perché la base elettorale secondo me si è saldata più di quanto noi pensiamo, e quindi tanto che si dice addirittura che adesso la notizia di queste ore è che se i pochissimi, sottolineo pochissimi, dissidenti dovessero uscire dal Movimento 5 Stelle, dovessero essere fatti fuori, i loro voti verrebbero sostituiti da quelli di Giorgia Meloni, che è Fratelli d'Italia, che in questo momento ha una certa difficoltà a non votare quello che propone questo governo, perché gli si confà molto, come dire. Quindi questo sposterebbe ulteriormente a destra l'asse del governo giallo-verde e confermerebbe che c'è una mutazione in atto, insomma. Bisogna considerare, per esempio, che quando è stato fatto questo governo, una sola persona, cioè, che passerà alla storia, nel bene o nel male, a seconda dei giudizi, un solo eletto del Movimento 5 Stelle, un consigliere comunale di Benevento, che è dimesso e ha detto: mi dispiace, io fino a qui non ci arrivo. Una sola persona, tra centinaia e centinaia di eletti. È un dato impressionante. Comunque la si pensi, non era una scelta scontata, non era una scelta annunciata prima. Quindi il livello di adesione a questa scelta è stato impressionante. C'è un solo consigliere comunale di una città di provincia che ha manifestato il suo dissenso. Quindi c'è una cultura comune che unisce. Grillo la settimana scorsa alla kermesse Italia 5 Stelle al Circo Massimo ha detto: Salvini è una persona leale, io lo stimo. C'è una mutazione in corso. Questa mutazione prevede anche che ci sia un travaso di voto interno alla coalizione. Perfetto, io ti ringrazio molto. Purtroppo siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata, stiamo finendo un po' il tempo, però ti ringrazio molto e ti saluto e buona giornata. Ciao, grazie a voi.